diretta Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Beh, insomma, anticipatamente di solito all'orario quotidiano consueto, meglio dire, di Blu Radio Sera, anticipiamo di 30 minuti perché questa è una serata specialissima. Torneremo indietro col tempo di circa 40 anni, più o meno, e così nonno Maurizio potrà riscoprire le sue origini, vero Maurizio? Buonasera, caro Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, perché l'estate porta il beat, porta gli anni 60 ed altre cose, vero Vannuccio? Buonasera Vannuccio. Buonasera a tutti. Sì, diciamo porta il beat c'è sempre stato, come aveva giustamente anticipato Agostino, da 40 anni a questa parte, insomma anche di più, però diciamo che l'estate forse lo presenta in maniera diversa, lo rende elettrizzante. E poi è più piacevole ascoltarlo magari se in riva al mare, che ne so, stai passeggiando, un po' di musica degli altri anni penso sia molto gradevole da ascoltare. Comunque, prima di cominciare, prima di presentare i nostri ospiti, come di consueto devo dire i nostri dati, diciamo quelli tecnici, cioè le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Poi ancora il nostro numero telefonico, quello in studio, è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli SMS, se volete messaggiare, fare qualche domanda, perché no, penso siano disponibili anche a rispondere alle vostre domande. Vi ricordo, se volete fare questi SMS, il 346 23 20 033. Potete anche scriverci o nella pagina mia, cioè quella di Agostino Spolaore, oppure quella della radio. Io leggerò così questi messaggi che arriveranno e li faremo sentire anche in diretta, ovviamente. Allora, detto questo, credo che sia giusto il momento di presentare i nostri ospiti. Lascio la parola a chi? A Maurizio o a Vannuccio? Beh, co-conduciamo il programma, possiamo co-conduciamo il programma. Stasera abbiamo i Cristalli. Cristalli, ce ne sono, erano tanti gruppi negli anni 60 nel veneziano. C'erano gli Uragani, in Italia c'erano i Pelati, così chiamati, i Chiodi, i Lungimiranti. Era una caterva di nomi. Ma i Cristalli avevano una certa tipologia, erano molto famosi nell'ambito del veneziano. Vi potete presentare, Cristalli? Buonasera a tutti. Buonasera. Come va? Va bene? Sì, sì, adesso iniziamo. Speriamo va bene, vada sempre. Siete venuti qua. Certo. Siete certo. Venuti qua. Speriamo vada sempre. Io ho la meglio. Fotografia dell'epoca 69. Lo so, ma mettila. Vedete? Via. Non fammela vedere. Dobbiamo ringraziare il nostro direttore artistico Alberto Pristo, che ha escogitato, ha creato il programma, e lo ringraziamo sempre. No, sì. Intanto mi preme ringraziarvi per averci ospitato qui. Ovviamente è una nota in più a quello che stiamo facendo e a quello che abbiamo fatto e continueremo, spero, sì, a fare. Avete cominciato nel 1969, l'anno di Abbey Road. Sì. Stasera c'è Paul McCartney a Londra, è l'anno di Abbey Road. Siamo 69, come mai avete cominciato in quel momento là? Come è avuto la scintilla, come è nata? Chi parla di... Intanto vi presentate nome e cognome, sì. Dai. Un ciao a tutti da Giampaolo Fagrazzi. Giulia Buzzo. E la new entry, Giulia. Giovanissima. Giorgio Penzo. Parlate vicino al microfono, sì, per sì, Giorgio Penzo. Sì. Beh, scusa, ma giustamente, giustamente, come diceva Maurizio, Giulia è una new entry, ma lo spirito della serata è anche questo, cioè dire, guardate che se anche questo gruppo ha cominciato nel 1969, loro sono nel 2012 ancora qua, belli freschi e pimpanti decisamente, magari proprio proponendo anche una voce nuova, come in questo caso Giulia. Certo, no. Dimmi. Allora, dicevi quando abbiamo iniziato. La scintilla è nata nel 1969. Beh, era il periodo che tutti quanti fondavano i mini complessini. Esatto. E tutti volevano iniziare. Infatti dopo per strada tantissimi, perché noi veniamo, cioè abitavamo, lui abita ancora all'isola della Giudecca, a Venezia. Che è il cuore di Venezia, che è il cuore pulsante. Assolutamente sì. Il cuore pulsante. Assolutamente sì. Si formavano questi gruppetti che dopo tanti si sono persi per la strada. Anche le orme si sono perse per strada, anche purtroppo. Anche le orme sono nate anche loro nell'entroterra. Certo. Però noi invece abbiamo avuto la costanza di andare avanti, di proporci sempre con cose nuove, di avere un rapporto con il pubblico, soprattutto perché a differenza di tanti amici che noi conosciamo che sono degli ottimi strumentisti, però sono segregati in una stanza a fare prove e non riescono ad andare fuori, noi invece siamo tutto l'opposto. Cioè quale strumento era all'epoca il tuo, che è ancora adesso? Io ho iniziato con la chitarra. Hai iniziato con la chitarra? Ho iniziato con la chitarra, dopo come si suole negli anni 60. Era facile suonare la chitarra, tutti volevano suonare. Sì, difatti tutti volevano suonare. Tutti volevano imitare. Se non che dopo il tastierista non era proprio tanto la quale. Abbiamo mandato via e l'ho sostituito. Mi sono messo a suonare le tastiere. Beh, anche perché era abbastanza, secondo me, obbligatoria il sound. Il sound del beat ha bisogno della tastiera. Visto che Brian Noga è venuto di recente dalle nostre parti, è proprio quello. Il famoso Hammond. Hammond era proprio l'icona, l'emblema dei gruppi beat. E te cosa suonavi? Io devo dire che invece per me... Sempre vicino al microfono. Purtroppo la schiena che mi fa male. Già, avvicinatelo. Allora, per me invece è stato differente, nel senso che io ho iniziato suonando il basso all'interno del gruppo e non sono entrato nel 69 ma nel 70. Quindi qualche mese dopo. I primi due elementi che avevano preso il bassista e il batterista li erano lasciati e siamo subentrati io e un altro componente che suonava la batteria. Adesso invece sono passato alla chitarra. Perché quindi hai abbandonato il basso? Come sì. Beh, io ti vedo bene come bassista, ben messo fisicamente. Continuo a suonarlo ancora, però resta il fatto che all'esterno magari è molto più semplice che come immagini, vedere tastiera, chitarra, cantante, c'è proprio una questione anche di immagini. Certo. Mi premeva semplicemente dire che il gruppo si è nato nel 69, nel 70 è stato formato il nucleo vero e proprio e in tutti questi anni sono passati tanti elementi in questo gruppo e per nostra fortuna ci siamo lasciati con tutti molto molto bene. Cioè non c'è stata una rottura? No, chi ha scelto strade magari per questioni di lavoro, certo. Chi ha scelto perché magari si è sposato e le donne... Qualche volta. Le donne allontanano o avvicinano? A seconda. Per cui... Parliamo di Yoko Ono. Ecco, abbiamo parlato di... Appunto, basta dire appunto, sufficiente. Appunto. Per cui ci sono stati diversi elementi che si sono alternati in questo gruppo. Alla fine siamo rimasti noi due. Siamo riusciti a festeggiare anche i 40 anni. Adesso sono già 42. Perché sono 42. Di onorato servizio musicale. Io dico sempre che noi siamo un po'... l'altra volta parlavamo con Vannuccio, che secondo... Anche lui ha onorato servizio musicale, non ha 40 anni, ma insomma, ci siamo quasi, ci siamo. Secondo noi l'obiettivo principale, o quello che è il nostro credo, è la musica, per cui noi cerchiamo sempre di divertirci. Certo. Al di là di quello che può essere il palco da 100 metri o il palco da 3 metri o per terra, cioè noi alla fine quello che è il nostro... misuratore è la gente, il sorriso della gente, il fatto che la gente canta con noi e lì capiamo che effettivamente stiamo non facendo un buon lavoro ma stiamo divertendoci. Ecco, hai detto una cosa giusta, 1969-70, io voglio sentire da voi, poi parliamo anche con Vannuccio, che spirito si respirava in quel momento là? Dopo chiaramente l'entrata di Giulia, molti anni dopo, è diverso. Però che spirito si sentiva? Qual era l'atmosfera, il pathos che c'era nel 69, nel 70, quando il gruppo si è formato? Vuoi sapere quello io? Mi viene da dire perché c'è una battuta, non so se possa fare, ma adesso i DJ sono osannati, no? Sì, all'epoca, ma giocano troppo con le macchinette adesso. No, all'epoca il DJ era lo sfigato del gruppo. Certo. Cioè bisognava per forza di cose suonare. È vero. Bisognava suonare. E uno dei grossi centri, io non sono assolutamente iperreligioso, diciamo così, però uno dei grossi centri di aggregazione erano i patronati. I patronati all'epoca che noi facevamo le prove erano a disposizione di tutti, ma tutti avevano un gruppo musicale. All'epoca c'era uno spirito di aggregazione che probabilmente oggi si è perso perché noi adesso Giulia è una è l'ultimo elemento che abbiamo preso come cantante, però abbiamo provato altre nella strada e purtroppo è proprio una questione anche di mentalità differente dalla nostra, ma non solo per l'età, proprio per il tipo di approccio. Cioè una volta lo strumento musicale io personalmente me lo sono conquistato con i genitori, con la paghetta settimanale, mentre adesso hanno tutto in un attimo. Questo è vero. Ti dico un aneddoto di un altro personaggio in questo caso che si conosce a livello nazionale, è Fabio Liberatori, sì, tastierista degli Stadio, no? Certo. E con Fabio abbiamo sempre riso su una cosa perché diceva alla nostra quando eravamo giovani noi chi è che ci mandava a studiare musica? Adesso praticamente gli comprano gli strumenti perché stiano a casa, sti ragazzi, perché facciano qualcosa, no? Allora, per cui molto probabilmente la verve che si respirava era completamente diversa, ma anche, anche la passione e la voglia di fare poi era completamente diversa, molto probabilmente. Certo, e il discorso, lui ha citato una cosa molto bella, i patronati, lo spirito di aggregazione, adesso non c'è più, lo spirito di aggregazione serviva anche per ragionare, per formare, per sperimentare nuovi suoni, per far vedere, per far sentire, cioè, c'era Hendrix che suonava la chitarra in una certa maniera, allora cerco, non cerco di imitare, cerco di avvicinarmi, di pensare, di vedere come suonava Hendrix in quel momento, Hendrix per dire un nome fantastico, c'era lo spirito di emulazione, ma uno spirito bello, positivo, non negativo. Tu cosa dici, Vannuccio? Ma sicuramente magari l'argomento hendrixiano forse non è più adatto alla serata. Però il beat, allora, i gruppi beat, però voglio dire, Procolaro, Moody Blues, esattamente, i nostri bei personaggi che sicuramente portavano delle sonorità che erano assolutamente interessanti. Tieni anche presente che la strumentazione era molto ridotta rispetto a quello che siamo abituati adesso, certo, dove con poco possiamo veramente avere di tutto. Diciamo che questo, secondo me, la limitazione nello strumento che uno poteva usare doveva necessariamente spingere le persone a scrivere delle belle canzoni. Ecco, hai detto dovevano scrivere qualcosa di bello. Dovevo, perché adesso scrivere, tu puoi giocare con i suoni, anche il suono è bello, quindi in qualche maniera convinci gli ascoltatori quello che stai facendo. Una volta i suoni erano quelli, ecco, una chitarra al massimo aveva un wah-wah, al massimo aveva un flanger, un vibrato, aveva quattro cose. E Agostino ci ha messo l'organo di Gary Brooker sotto. Scusate se è poco. Scusate se è poco. Vannuccio ha accennato i Procolarum. Fatto bene. Ha fatto lui, ma i Procolarum o i nostri italianissimi senza luce? Il discorso delle cover, anche là si gioca. C'erano i Dick Dick che facevano le cover, praticamente cover al 100%, cioè i nomadi che creavano le cover, è stato diverso. Beh, ancora peggio secondo me l'Equipe 84. Vandelli sapeva fare le cose come voleva, però tu ben sai, era uno sperimentatore, ha introdotto è una polemica che potremmo continuare fra me. Però loro hanno sfruttato un filone che è durato nel tempo, a differenza, Mari, non so, di altri gruppi tipo i Corvi, quella gente là che... Ma erano bravi, Mari, i Corvi, sì, erano tremendamente bravi. Ma non l'hanno sfruttato. Esatto, tu vedi, erano tutti bravissimi. Prendi i Ribelli, sì, sappiamo benissimo, straordinari. Ovviamente che cantava con i Ribelli. Proporre qualcosa di tuo diventava complicato. Certo, diventava complicato comunque anche all'epoca. E infatti, come giustamente diceva Paolo, sopravvissero poi quei gruppi che tutto sommato facevano delle cover. È vero, d'altronde pescare nell'internazionale ti dava molto più spazio che pescare nel poco italiano. Sul commerciale, perché naturalmente il commerciale paga. E quindi c'è anche quello il discorso. Adesso ci ascoltiamo qualcosa, perché sì, avete chiacchierato anche un po' troppo. Sentiamo qualcosa del disco. Avete scelto la traccia numero 8. Adesso me la puoi presentare. È Libera, mi pare. È Libera, sì, esatto. E com'è è costruito questo pezzo? Che è del 1900, del 2000 e del 2000 è l'anno del pezzo? Del 2000? No, è stato microfono. È stato riregistrato. È un brano molto più vecchio. Di quando era? Credo sia un brano del 1998. 98. Brano, no? È stato registrato È stato registrato in una nuova versione. E quel disco è nato... Si intitola il disco? Libere emozioni. Esattamente. Porta il titolo da un brano per noi molto fortunato. Un brano che ha vinto il Serenissima nell'88 e nell'89 ha vinto... E lo stesso il Serenissima d'Oro, che era nient'altro che la vecchia Gondola d'Oro di Venezia, certo. Cioè in pratica tu presentavi un brano nell'88, l'abbiamo presentato e l'anno dopo venivi premiato come canzone più ascoltata nelle radio. In questo caso noi abbiamo vinto tutti e due i premi. Detto questo, che il disco, noi abbiamo trovato questo artista che è Leone Panisson, che è un artista che ha vinto Castrocaro, un artista molto bravo, che si era dimenticato di quanto bello era cantare. E a un certo punto è un nostro amico, ci siamo trovati un giorno d'inverno così, è nata sta idea di fare un disco con le vecchie canzoni però riadattate. In quel disco, mi preme dirlo, hanno partecipato Cristiano Verardo, chitarrista di Pittura Fresca, hanno partecipato De Angilla, che era l'altro anno il percussionista di Tiziano Ferro, mentre quest'anno credo stia lavorando con Giovanotti, il percussionista di Giovanotti, e poi hanno lavorato tantissimi strumentisti di Milano, turnisti di studi di registrazioni. Abbiamo cercato di fare un disco diviso tra i due artisti, per cui Leone Panisson e i Cristalli, che eravamo io e Giampaolo, e a quell'epoca c'era un'altra cantante che adesso si è sposata, sempre per il discorso famoso che si perde qualcuno per strada, sempre si è sposata procede. E ha scelto di fare altre cose. Il brano che appunto stavamo scegliendo prima è Libera, è una bellissima canzone di Panisson. L'ha scritta lui, praticamente. L'ha scritta lui. Voi l'avete arrangiata? L'abbiamo riarrangiata tutti assieme e poi l'abbiamo anche cantata tutti assieme. Ascoltarla forse è meglio, sì, per capire anche il testo della canzone, che a mio parere è molto molto bella. E okay, l'ascoltiamo. Senti com'è leggera l'aria, come rapisce i tuoi pensieri, come due corpi in una spiaggia uniti a mille desideri, come la vita che ti sfugge tra le mani, dici di viverla domani, anche se il tempo di cui disponi finito è già. E libera, fuggirai dai tuoi pensieri, brucerai quello che ieri come te diventato e cenere, strapperai la terra, l'erba e poi ritrovandoti lontano canterai al vento della tua vita di quanto presto sia finita, di come sei diventata cenere. E come senza accorgertene tu sei fuggita ormai lontano. Senti com'è leggera l'aria, cosa ti resta tra le mani? I tuoi pensieri di domani. E libera, fuggirai dai tuoi pensieri, brucerai quello che ieri come te è diventato e cenere. Strapperai la terra, l'erba e poi ritrovandoti lontano canterai al vento della tua vita di quanto presto sia finita, di come sei diventata cenere. E come senza accorgertene tu sei fuggita ormai lontano. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qui, sempre in diretta ovviamente su Blu Radio Veneto con Maurizio, con Vannuccio, ma soprattutto con i Cristalli. Ci siamo poc'anzi ascoltato questa canzone che si intitola, che mi sfugge il nome adesso, È Libera. Io devo fare subito una domanda. Come mai in questa copertina con questi bambini? Chi è che mi risponde? Anche perché vi devo confessare che quando ho visto questo, soprattutto la copertina nella parte, come dire, davanti, insomma, c'è questo bambino con questo pennello in mano. Mi ricorda moltissimo una copertina di una band che io amo moltissimo. No, non è stato casuale. Non è stato casuale. No, assolutamente. Anzi, all'inizio il bambino, questo devo dirlo, però il bambino è il figlio del grafico. Intanto, stabiliamo quello. È bella figlio come del grafico. Del grafico che ho fatto per cui... Insomma, all'inizio il bambino era nudo, perché l'idea era quella di, fra parentesi, copiare la vecchia copertina di Alessandra dei Pooh. Vedi? Vedi, lui voleva arrivare a quello, assolutamente. L'idea era quella. Era quella di costruire, cioè il fatto dell'arcobaleno, di avere libere emozioni. Cui lasciare una libera interpretazione a quello che erano i pensieri dettati dalle canzoni, se non che il discografico Tasinato, che non era Vannuccio, è Tasinato. Il discografico che era Tasinato ci ha posto qualche problema, nel senso che era un periodo che purtroppo si parlava di pedofilia e poteva essere frainteso, quindi avete deciso. E per cui abbiamo optato per quelle foto lì un po' più caste, perché a noi piaceva il fatto del bambino, cioè libere emozioni, un bambino libero totalmente. Esatto. Questo è bella questa copertina. È molto bella, sì. Poi anche questo secchio datato. Ma guarda che anche dentro è più bello, perché ci siamo noi. Ah, sì. Questo è vero. ho visto un orsacchiotto, ecco, e la chitarra. Ecco. È un po' più bello. Dedicato a chi in questi anni ci ha sostenuto, a chi ha suonato con noi e a tutti coloro che ci hanno aiutato a vivere delle libere emozioni. Leone, Giorgio e Paolo. Bene, però è anche lo spirito del beat, no? Sì, lo spirito del beat, questo, no? Esattamente. Poi avete iniziato, sì, adesso parliamo con la Giulia, giustamente, adesso Giulia parlerà anche lei, visto che è la new entry. Cosa si sente, Giulia, entrare in un gruppo che ha una certa storia dopo tanti anni di musica? Tu entri, sei giovane, entri in un gruppo che ha un trascorso non da poco nell'ambito beat, o presunto tale. Sì, si entra, ma si impara tanto, senza dubbio, però devo anche dire che... non mi hanno mai messo in soggezione, o comunque mai, anzi, mi hanno sempre appoggiato, e forse è stato proprio questo che ci ha legato. Quindi praticamente non hai avuto nessuna difficoltà quando sei entrata? No, è stato tutto naturale, semplice, tutto naturale. Spontaneo. Sì. Dimmela, una cosa molto interessante, nel senso che questi innesti, no? Che avvengono, li vitalizzano sia loro, che ovviamente Giulia, sì, anche è la ragazza, per cui appunto, sappiamo bene come funziona, e ovviamente diventa anche interessante per Giulia contare sull'esperienza, poi soprattutto quando vai fuori su un palcoscenico. Esattamente, perché il discorso del palcoscenico, giustamente Vannuccio diceva, Si parlava che certi gruppi sono rimasti tipo i Dick Dick perché non facevano tante cover, cioè facevano episodi, pezzi famosi oltre manica o oltre oceano, riveduti e corretti da Mogol in chiave, in una certa maniera, e fatti in italiano a colpo sicuro, anche se certi testi erano totalmente, Vannuccio mi insegna, diversi, lontani anni luce dal testo originale, ma non c'entravano. Beh, i testi, secondo me, erano terrificanti comunque. La maggior parte dei casi, Mogol non mi è mai stato simpatico. No, è stato... l'ho sempre detto, ho sempre sostenuto la mia tesi che Mogol no, ma è un po' sopravvalutato rispetto a tante altre persone. Ne ha fatti tantissimi, vero? Perché era l'unico che riusciva. Era l'unico, poi c'era anche Giorgio Calabrese che ha tenuto un famoso pezzo. Bello. Ha tenuto bene un pezzo di Dila, ti ricordi? Sì. Quello è un piccolo capolavoro. Guarda, un piccolo capolavoro. Ovviamente dopo per la legge dei grandi numeri trovi sempre dei capolavori. Sì, certo, no? certo. E comunque l'importante, ecco, come si diceva, è che questi gruppi hanno effettivamente sfruttato nella maniera forse anche migliore, forse hanno anche aiutato a far entrare la musica straniera, sì, internazionale, in Italia, hai ragione. Io ricordo, le mie sorelle avrebbero sempre fatto estrema fatica ad ascoltare una canzone in inglese. Sono d'accordo con te. Dicevano, non capiamo niente cosa dicendo. Chiaro. Da fastidio, cioè dava... Non erano attenti. Non era la stessa cosa. L'attenzione, esatto, non era come era. Per cui, insomma, sono stati dei momenti interessanti, proprio anche da questo punto di vista. Quindi i Cristalli accompagnavano i pezzi loro alle cover. Alle cover, in inizio, quali cover? Io ho letto tanti titoli, ma quali cover all'inizio? 70, 72, 80, quali cover? Quello che attirava di più o le cover che a voi piacevano. È diverso il discorso, quello che attirava di più e quello che piacevano. Noi eravamo mirati a un certo tipo di cover. Mm. Cioè, visto che adesso siamo in 3, sì, una volta eravamo in 5, era diverso. E avevamo 4 cantanti in pratica. 4 cantanti. Allora. Quindi in pratica noi eravamo forse la brutta copia o forse la bella copia dei Pooh, dei New Trolls. Perché guardi me? Beh, se no così no, guardo te, perché cioè, senso, tu sei l'esperto mondiale di Jesus, penso. Sì, i Jesus già una voce un po' particolare. Ma che differenza? Adesso cadiamo in polemica l'opposta con Agostino così davanti. Lo tiriamo dentro? Fai il Pooh e i New Trolls. Cosa potevate scegliere voi? Fra i Pooh, no, dico i Pooh, i New Trolls, quelli soliti, i New Trolls di un certo tipo, perché Miniera era un pezzo molto difficile e molto importante, secondo me. Noi optavamo. Vediamo se Vannuccio dice qualcosa, a posto, ho tirato l'attenzione anche sua. Noi andavamo più verso i New Trolls, comunque. Bravi, mi fa molto piacere. Ma così sì, cosa dici? Ognuno è libero di fare. No, ma comunque guarda che io ascolto. Sto scherzando. Ancora adesso li ascolto. Stiamo scherzando. Solo per la tipologia di voce che avevamo. Cioè, era un bel sentire, certo, secondo noi, ma anche la gente ci ha dato... Sì, le voci di New Trolls erano difficili da avvicinare. Nico Di Paolo aveva un'ottava superiore. Certo, ma sai, magari si faceva qualcosina un po' più giù, passava, e si faceva lo stesso... l'aggiustamento di tonalità. E si faceva l'aggiustamento di tonalità, si faceva la nostra figuretta lo stesso. No, ma proprio il fatto di sentire magari, non so, le quattro voci, cioè... Ecco, questi sono così impari. Anche questa era la canzone. Sai cosa a me piaceva di più? E poi cominciamo a sentire anche loro, chiaramente. Beh, sì. A me piacevano i primi pezzi, Brennero 66, esatto. I pezzi al trasgressivi. Loro avevano fatto un famoso disco che poi hanno abbiurato. Mi pare, vero? Era, come si chiamava quel disco che loro hanno detto no, non ci piace più? Contrasto. Esatto, Contrasto, che era molto interessante, molto avanti con i momenti. Ne hanno fatte pochissime copie. Infatti, quello era... Purtroppo le cose sono cambiate, i discografici hanno premuto in un certo senso, perché i discografici allora, poi abbiamo un discografico qua davanti, erano molto forti Vannuccio all'epoca, i discografici. Beh, facevano tutto loro. Facevano tutto loro. non è che fossero forti. Conferma il nostro amico che qui ha fatto tanti anni alla radio, possiamo presentare. Sì, Gianluigi Benetti. Ecco, che qua che ci ascolta e poi fuori, forse entrerà nell'argomento. Ma sì, proviamo anche lui. Sì. E beh, certo, i discografici decidevano tutto. Cioè, inutile. Vedi, la differenza, come sempre, è che adesso uno a casa può fare quello che vuole. È vero. È una vero. Volta, solamente solo per pagare uno studio di registrazione, dovevi avere qualcuno che il soldo lo metteva. È certo. Per cui chi mette i soldi, come sempre, decide. Esatto. Adesso decidiamo di suonare qualcosa. Vai. Benissimo. Cosa ci pensate? Allora, sì. No, stiamo predisponendo tutti gli arnesi. Allora, noi pensavamo di fare proprio una canzone dei Nomadi del 1970, visto che l'anno che in pratica... Quando c'era ancora Augusto, ragazzi. Ricordatevi che c'era ancora Augusto. È tutta un'altra cosa. Mi dispiace per il nuovo cantante di Nomadi, che è di Padova, però è anni luce da Augusto, ma molti anni luce. Esattamente, sono d'accordo con te, cioè su questo sono d'accordo. No, per togliere, va bene. Per tornare al discorso dei Nomadi. Prima facciamo la canzone dei Nomadi, però poi volevo che tu tornassi con la Giulia per chiedere a lei, visto il discorso che facevamo prima dell'aggregazione, di come nascono le cose, come ci siamo conosciuti, certo. Poi lo chiedi a lei. Ok, dopo lo chiediamo. Quindi cosa adesso, ascoltiamo adesso? Facciamo una canzone che per noi è molto bella, perché oltretutto è legata al fatto che abbiamo iniziato la nostra attività, e anche chissà perché ci viene in mente quel famoso jukebox della spiaggia in questo periodo, dove tutti là con la monetina a mettersi soldini. Facciamo sentire Un pugno di sabbia. te. Dal momento che il sole non era più con me, mi baciava le labbra ed io di rabbia morivo già. Che sapore c'è per donare a te di avermi insegnato che cos'è il dolore, che non può scomparire se ricordo che Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, che effetto ti ha fatto, Maurizio? Sì, bello. Cioè, erano tanti anni che non sentivano Un pugno di sabbia. A proposito, Vannuccio, questo, questo è di Dayano Sofici, no? Di Mogol Sofici. Dayano Sofici. Quindi Mogol non c'entra. Assolutamente. Finalmente. No. L'ho scherzato, chiaramente. Sono io che sono molto probabilmente No. Abbastanza polemico era un pezzo, nel discorso. Però. Visto che è dentro la Giulia, come fai a avvicinarti a un pezzo così importante? Perché dobbiamo tenere conto di una cosa, forse Vannuccio può dire anche, può affermare lo stesso. Cantare i Nomadi non era tanto facile, che Augusto aveva una voce molto particolare e anche gli arrangiamenti che i Nomadi facevano erano, secondo me, erano lontani da tutti gli altri gruppi di cover. Però fai una distinzione, Maurizio. Una cosa è tecnicamente riuscire a cantare una canzone, una cosa è a interpretarla in qualche esattamente modo. Allora io penso che nel momento in cui tu arrangi la canzone per un altro interprete, questo riesca a cantarla benissimo lo stesso. Il fattore è lo spirito con cui viene cantata. Per cui penso che anche Giulia, quando canta, pur non essendo magari, non avendo vissuto naturalmente quel periodo o avendo vissuto l'epopea dei Nomadi, sappia lo stesso cosa va a cantare, sì, lei è molto brava, quindi sa benissimo cosa vive. O sbagliamo, sì. Giulia? No, è giustissimo, perché sono canzoni che parlano al cuore e penso che uniscano tutti. La mia generazione magari no, perché penso di essere un caso, forse non dico isolato, però purtroppo. Però comunque, secondo me la musica stessa è importante, perché fa bene per l'anima. Sicuramente è tutto giusto. Poi fa bene per l'anima. Anche comunque le canzoni di una volta, io sono vicina grazie anche ai miei genitori, perché sentendole da loro in primis. Certo. Perché? Ma tu sei arrivato ad ascoltare questa musica proprio grazie ai tuoi genitori o ti sei informata di tuo? No, entrambe due le cose, dai, diciamo. Un po' di mio, un po' da loro. un po' dai cristalli. Come, giustamente mi facevano. Come hai conosciuto i cristalli? Come è nata la conoscenza? Come sei entrata nell'ambiente cristalli, nell'humus sonoro della band, del gruppo? È nata all'ultimo dell'anno. All'ultimo dell'anno. Di un anno fa, dove io ero ad un locale dove loro suonavano con tre dei miei migliori amici. E uno dei miei migliori amici ha chiesto se potevo fare una canzone sapendo la mia passione per il canto. Mm. Non avendo mai studiato canto, però comunque o canto o parlo. Bene. E così l'ha chiesto a uno dei due. E uno dei due è venuto da me e mi ha detto... A te l'ha chiesto a te? Sì, mi ha detto, guarda, adesso non ho un microfono, però se vuoi puoi cantarmi in un orecchio. E allora gli ho detto, così cosa? Così subito, immediatamente ha capito... Cosa? E una canzone che a lui piace molto, Maledetta Primavera. Ah. Ho cantato un pezzo e poi... Alla fine della serata mi ha fatto qualche domandina e poi mi ha dato il biglietto da visita e mi ha detto vieni a fare una prova. Dimmi. Volevo precisare che non ho fatto provini. nessuno aveva messo in dubbio. La cosa divertente è che in questo caso loro hanno veramente fatto come si faceva a fine anni 60. Sì, si faceva proprio, no? Così. Il provino vero e proprio della persona che veniva, faceva in qualche maniera, ti faceva ascoltare direttamente cosa era in grado di fare. No? Non è come adesso che ti mandano qualcosa. È vero. C'è una cosa molto importante che abbiamo detto a Giulia, ma l'abbiamo detto un po' a tutte le cantanti che si sono susseguite, è quello di dire a tutte, guardate che noi è da 40 anni che si fa musica, siamo zero, quindi mettetevi nell'ottica che dovete lavorare tanto, c'è tanto tanto tanto da lavorare, perché noi dopo 40 anni sappiamo che dobbiamo lavorare ancora per dare sempre il nostro meglio. Certo, quindi certo. Ricordati che devi faticare. Ah certo, hai perfettamente. Tu hai parlato all'inizio dei DJ. Qui abbiamo un DJ, per tanti anni ha fatto il DJ. Adesso viene al microfono, ci parli un momento delle cose. Un secondo. Cosa se noi in radio DJ l'abbiamo fatto atipicamente. Invece tu hai fatto il DJ nel vero senso del termine. No, attenzione. Dimmi. Maurizio, io ho condotto radiofonicamente presso un'emittente. Regionale, per 10 anni programmi specializzati su un certo tipo di... Come il nostro praticamente. Bravissimo, esattamente. Quindi non ho fatto, io sinceramente detesto il termine DJ. Il conduttore radiofonico, forse risulta sicuramente un termine più appropriato. Sono d'accordo con te. E cosa ne pensi allora dei DJ dell'epoca, visto che ci siamo? Ma sono nati perché richieste soprattutto dei locali da ballo, se ricordi bene, i vari locali anche della zona facevano... mettevano su questi dischi, poi torneremo a parlare anche della terminologia quando dicono vado a suonare. Sì. Io sono musicista da 40 anni. Ecco, esattamente. Daremo il via a una diatriba molto, molto, molto ampia. Comunque, in effetti, hanno iniziato lavorando con queste sale da ballo, con queste cose qua, poi alla fine sono arrivati, come arriviamo adesso, a creare generi musicali, vediamo Sinclair, vediamo altri. Vediamo Moby soprattutto, esatto. Che è forse il più bravo di tutti. Sì, ce ne sono tanti comunque, sì, di certo. Bravi. Però, ripeto, modificano i brani e danno qualcosa di loro, creano qualcosa di loro, chiaramente utilizzando Cubase o altri software. Certo, hanno, certo, certo. Una volta non c'erano. Non c'erano, esattamente una non volta c'erano. Si lavorava sullo scratch, si lavorava sul timing, sull'intro. Chili di LP da portare, chiaramente. Esattamente. Valice, tu pensa solamente i, tra virgolette, i poveri cristi che suonavano non avevano neanche le casse spia. No, è vero, non avevano niente. No, cosa dici? No, non c'erano proprio le casse spia. Avevi solamente la cuffia. È la cuffia? Il telefono adesso hanno, perché usano la monocuffia. Esatto, la monocuffia. Ma adesso sono avanzati tecnologicamente. Però lo spirito era diverso forse, cosa dici? C'era più voglia di sperimentare, di faticare o no, secondo te? O una leggenda metropolitana della fatica, per far dire? Da una volta si faticava di più. Poi c'era anche forse più voglia di uscire, c'era anche più voglia di creare, di inventarsi un qualcosa con il... pochi mezzi che c'erano rispetto ad oggi, un po' come anche nei gruppi. Io guardo loro e vedo me guardo il Crystal, ma vedo me negli anni 60, quando io ho iniziato nel 63, quindi c'è qualche... Anche, Anche te fai parte del beat, la Beat Generation. Sì, sì, esatto. Musicale, non letterario, ma anche letterario, perché no? Sì, abbiamo fatto cantautorato. Ah, appunto, appunto, appunto. E c'è ancora la bella voce da radio, comunque. Ma certo, dimmi Agostino. No, dicevo che c'è ancora la bella voce da radio. Esatto, diceva giustamente Agostino che la voce radiofonica ce l'hai ancora. Ma quella sì, ma quella di mare. Vieni qua una sera, facciamo una trasmissione insieme. Guarda, bevo volentieri. Ci mettiamo d'accordo poi. Io ho una sorpresa per voi, spero sia gradita. Abbiamo Mario Zanetti al telefono. Ciao Mario. Ciao a tutti, ciao. Allora, penso che soprattutto i nostri amici veneziani conoscano molto bene anche i rocchettari lo conoscono, no? Anche i rocchettari lo conoscono. Esatto. Allora dai, Maurizio, presentalo tu. Mario Zanetti, ragazzi, chi ha fatto le cover degli U, ha ripreso i pezzi degli U? Solo voi l'avete fatto. È difficile riprendere i pezzi degli U, caro Mario. Sì, non è stato facile. I can't explain, che bel suono. I can't explain. È bello, sì, dire I can't explain. È un bel pezzo, veramente. Con grandioso. Quella voce, Mario. Con I can't explain. Cioè, adesso gli U concludono, il 12 agosto concluderanno le Olimpiadi a Londra. Ma I can't explain, gli U, ragazzi, è difficile. Dimmi, Mario, che sensazione hai? Come ti sei, dal punto di vista vocale e anche mentale, a approcciarti a un pezzo simile degli U, a dei mostri sacri? Guarda, noi in quegli anni eravamo veramente... Sono gli uragani, per chi non lo sapesse. Sì, degli uragani, esatto. Eravamo entusiasti di questo gruppo, degli Animals, dei V, eccetera. E veramente ci siamo buttati dentro e come avete visto o sentito più di qualcuno, i nostri dischi a quei tempi lì, che erano usciti in anticipo a quelli inglesi, hanno avuto veramente un bel successo. Certo, diciamo, certo. In quegli anni, ecco, e ancora tuttora sono ben ascoltati e anche ben pagati dal punto di vista di collezionisti. Sì, questo è vero, non posso dire è vero. Mi confermo. Anche perché sono introvabili. Io del gruppo sono ancora l'unico che li ha tutti e quattro, i nostri originali. Veramente mi ritengo come un oracolo proprio. E quando Gianni Boncompagni e Renzo Arbore ti hanno portato avanti nella famosa mitica bandiera gialla, cosa hai pensato? Ma guarda, è stata un'esperienza incredibile, che mi ricordo tuttora, che eravamo al mare noi e quegli anni lì si aspettava altro che ascoltare questa trasmissione, e quando abbiamo saputo che eravamo in classifica è stata veramente un'emozione incredibile. Perché c'era uno scossone, perché la radio, io spero anche adesso, Annuccio, portava avanti un discorso, era totalmente importante con quattro I davanti. Vabbè, la radio. Sicuramente la radio era veramente tutto per noi giovani una volta. Tutto. Eh beh, non c'era molto di più, vero Mario? Però diciamo ha portato avanti veramente delle cose incredibili, insomma. Ecco, io volevo anche sottolineare anche un'altra cosa, come abbiamo detto per i nostri amici cristalli che sono qua, e anche gli uragani di Mario. Li saluto tantissimo anche loro, che qualcosa mi ricordo di loro. Grazie Mario. Ciao, grazie a tutti. E che anche gli uragani continuano a suonare. Cioè, come si diceva fin dall'inizio, no? Questa tra virgolette passione, questa voglia di musica, sono 50 anni che la portate dentro e la portate avanti, soprattutto, che è la cosa più sensazionale da un certo punto di vista, no? Sì, è vero. Allora, senza falsa modestia, purtroppo sono non dico l'ultimo di Moicani, ma l'ultimo degli uragani ancora in attività. E ho trovato quattro elementi fantastici, sempre dei miei anni, diciamo, che mi danno una mano a portare avanti questo mitico beat e anche il nome degli uragani, insomma. Ecco, insomma, quella la cosa principale, no? Lo spirito che comunque rimane, come ci confermavano prima sia Giorgio che Paolo, insomma. Lo spirito, devo dire, che guai se manca, perché certo, a questa veneranda età, se non chi si diverte... Veneranda! Ti supero, ti supero come età, quindi no, doppiamente veneranda. Chi mi supera? Io. No, non credo. Sì, vabbè. Beh, siamo là. Vabbè. Comunque mi sto ancora divertendo tantissimo e vedo che anche chi ci ascolta quando suoniamo, che noi suoniamo ancora tutto e prettamente dal vivo. Quello che è bello, bellissimo. Senza nessuna base, senza niente, veramente abbiamo una soddisfazione incredibile. Incredibile. E giustamente facevano notare i cristalli che suonare davanti al pubblico è una soddisfazione tremenda. Continuare a suonare sempre è bellissimo. Esatto. Al di là di tante cose, al di là dei problemi, al di là delle difficoltà, suonare là è meglio di tutto, secondo me. È quello, come si dice, il bello della diretta. La gente capisce, specialmente la maggioranza, diciamo, e ci apprezza, e apprezza veramente chi suona dal vivo e che dà qualcosa di suo. Sono d'accordo con te, la gente è stanca di sentire le cose, la gente, cioè i cantanti che muovono la bocca e basta. Secondo è stanca, me, sì. Secondo è stanca. Me, sì. Basta, hanno fatto il loro tempo. Secondo me, qui dentro, qui a Radio Sera o Rockaway, che dir si voglia, dal vivo è la cosa più importante, perché la gente ascolta, cioè è un'altra cosa suonare dal vivo, è un'altra cosa, non so se siete d'accordo, e suonare balbettando, tirando fuori. Sicuramente. Io mi troverei veramente in imbarazzo in playback, eccetera. Sono troppo abituato da sempre a dare me stesso e basta. Dimmi. Noi abbiamo visto delle orchestre da 7-8 elementi completamente in playback totale. Ma come mai, secondo te? Questione di costi, di paura? Probabilmente per una questione, forse non hanno più il tempo di far prove, non hanno più voglia, lo fanno per mestiere. È un po' il discorso a me. Mi ha fatto molto piacere quello che ha detto l'amico, di portare avanti il nome Uragani. Sì. È la stessa cosa che noi sentiamo, io e Giampaolo, per cristalli. Cristalli. Certo. Cioè, è una cosa che senti dentro, cioè nel senso che è sempre tornando al discorso di prima, è lo spirito di appartenenza. Bravissimi. Lo spirito di appartenenza è una cosa che è fortissima, la senti dentro fortissima. Cioè, è come un figlio che uno aspetta il maschio. Porta, portare, no? È la stessa cosa per noi. Cioè, devi lasciare qualcosa. Non sapevo, perché è qualche anno che non li vedo. L'ultima volta credo di averli visti al Tognolo, credo, per una serata. Una serata beat, qualcosa del genere. Non sapevo che era rimasto lui solamente il membro originale. Però è molto importante quello che lui sta facendo, un po' quello che alla che fine stiamo cercando di fare. Il fatto di inserire la Giulia o qualche altro elemento per poter portare avanti questa idea, passione. Cioè. Giorgio, è la parte fisiologica della faccenda. Il tempo passa e le cose comunque cambiano, e le vicende proprio cambiano. Certo. Comunque, Mario, allora, bravi complimenti. Allora, noi ovviamente vogliamo ringraziarti molto. Volevamo anche far sentire qualcosa degli Uragani, però. Grandiosi, grazie molto. Allora, quindi lascio la parte strumentale ad Agostino, che ci farà sentire qualcosa degli Uragani. Ti ringrazio ancora molto per aver partecipato a questa trasmissione. Grazie a voi dell'ospitalità. E facciamo un appuntamento, cari Uragani. Qui si suona sempre dal vivo, quindi ci può essere la possibilità, vero Agostino? Sì, Mario, quando vuoi venire a trovarci. Appunto. Ci mettiamo d'accordo e via, e portate le note di Yu, che io quando sento Yu mi devo alzare in piedi, chiaramente sono un rocchettaro convinto da sempre qua dentro, e altre cose vostre. Ci mettiamo d'accordo, vi ringrazio per l'ospitalità ancora. Grazie a te Mario. Grazie a voi. Mario, dimmi, con quella voce ti va bene? Oh, stupenda. È il numero uno nostro, ecco. È il numero uno. Grazie. Ciao, grazie a te. Ciao a tutti. Buona serata. Uragani con quella voce. Me. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 e 24, oggi è venerdì 27 luglio 2012, questa è la vostra emittente Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino, ma c'è Maurizio, ma soprattutto c'è Vannuccio, ma soprattutto ancora di più ci sono loro, ci sono i cristalli che sono venuti a trovarci questa sera per fare, come dire, celebrare il beat degli anni 60-70, insomma, se mi consentite. Sì, decisamente, è proprio così. Lo stiamo celebrando in tutte le sue maniere. Ma sì, che bello, bello celebrare. Celebrare però divertendoci, quello è bello. Certo, sempre quello. È importante. Quello è il nostro pane quotidiano. Poi il venerdì ancora meglio. Ancora di, ancora meglio. Soffeggiamo sopra. Tanto meglio così. E infatti noi abbiamo appena sentito gli Uragani, che erano anche loro dei grandi esponenti del beat veneto, del rock beat, del possiamo, rock beat, sì, possiamo dire questo, sono più rockeggiante, sì. Ma questo insomma non significa che non fossero altrettanto apprezzabili di chi faceva magari sì, musica un po' diversa, quel beat un po' più soft, eccetera. Però insomma, volevo proprio invitare i nostri ospiti cristalli a suonarci loro qualcosa, certo, li abbiamo qua. Allora, e quindi siccome prima abbiamo fatto un discorso, mi dispiace per l'amico Agostino, però a noi ci piacciono i Pino Tross. Quindi, guarda, io sono dell'idea che la musica è soggettiva. No, io lo non so, c'è lo so. Sì, no. Stiamo chiaramente. Guarda, ascolto anch'io tutta la musica anche, possibile e immaginabile. Anche quindi, perché comunque non mi fai cambiare idea. No, assolutamente. No, e non sono qui di certo per fartela cambiare. Comunque, noi abbiamo scelto una canzone che secondo noi è una tra quelle che hanno fatto conoscere di più i Pino Tross. Riveduta corretta naturalmente nella tonalità, lo diciamo, nostra, perché mi sembra giusto, è chiaro. E vi facciamo sentire Una miniera. Ah, bellissima. Le case, le pietre ed il carbone di nero il mondo. Il sole nasceva, ma io non lo vedevo mai. Laggiù era buio. Nessuno parlava, solo il rumore di una pala che scava, che scava. Le mani, la fronte, hanno il sudore di chi muore. Negli occhi, nel cuore, c'è un vuoto grande più del mare. Ritorna alla mente, il viso caro di chi spera. Questa sera come tante, in un ritorno. Stasera come tante in un ritorno. Io Cosa nascondi dietro quel sorrisetto, Moritz? Dimmi. Dire che è difficile fare un finale da neutral, però siete riusciti a farla bene, secondo me. Era molto, molto difficile, molto rischioso. A maniera un pezzo molto rischioso, secondo me. Però, sai, uno dei problemi, sai qual è? Cantare seduto veramente sì, è complicato, decisamente. Però, vedi, Miniera è anche emblematica per un'altra cosa, dimmi. Perché dà veramente la dimensione del beat, cioè certo. L'armonizzazione delle voci. Totale. Che non è una prerogativa del rock, non è una prerogativa del pop, incredibilmente, perché lì hai un solista che canta, sì. E deve cantare. Il beat effettivamente è a metà strada, devi avere un bravo solista che conduce la canzone, devi avere dei bravissimi gregari che ti armonizzano poi tutto il brano, per cui insomma diciamo che siamo entrati nella tecnica in questo caso proprio del beat. Ma invece. È giusto che tu abbia spiegato la tecnica, perché giustamente nel caso di Neutros avevano proprio un'armonizzazione totale. Nico Di Paolo era il solista, ma tutti gli altri lo seguivano a ruota, nel senso positivo del termine. Esatto, ma vedi anche i grandi appunto gruppi internazionali, vedi i Bee Gees, vedi certo. I gruppi più o meno vocali, perché poi insomma è ovvio che di una canzone tu senti principalmente la melodia vocale, però sotto c'è un lavoro enorme a livello strumentale, però diventa esattamente quella che è la caratteristica basilare del beat. Ma secondo quindi... me c'è stato un lavoro anche da parte di Cristalli, perché riprende un pezzo come, non so che pezzi avete in carnet dei Neutrals, oltre a una maniera anche al Debaran, forse una carezza nella sera. Anche qualcuno più vecchio, ancora... Visioni. Ecco, Visioni è un altro pezzo difficilissimo, per esempio. Fammi un volete fare un refrain di Visioni un secondo? È un po' difficile. E poi vabbè, nel caso Visioni è secondo me un po' più complicato che una maniera. O no, cosa dici? No, a livello di armonizzazione microfono, vocale, grazie. A livello di armonizzazione vocale Miniera credo sia molto complicato. Molto più complicato. Molto complicata. Il problema è che cerchiamo di fare con due voci, con tre voci, quello che loro facevano in quattro. In quattro, e con Nico Di Paolo che pompava tutti quanti. Quel discorso. Ma sai, non è neanche tanto il discorso di Nico Di Paolo, che ovviamente non vogliamo sminuire in questo caso, è anche, come posso dire, noi la stiamo facendo seduti su uno studio radiofonico. Questo è vero, è molto che è estremamente riduttivo, complicato. È riduttivo e complicato. Per, sì. Cui tanto ancora più merito che ci siano riusciti a tenersi in sì, linea. Sono stati bravi, decisamente, perché ripeto, è complesso, è arduo. Certo. Giustamente studio radiofonico, piccolo, seduti e non in piedi, e già vuol dire questo. Esatto. Bene. Neutros sì, e poi nell'ambito del beat, delle cover, ma c'erano delle cover più entusiasmanti per voi, che più amate, e quelli che amate meno? O al di là è il pubblico che vi chiede questo, il pubblico che non vi chiede questo? Io credo che tutte le canzoni di quell'epoca sono amate in particolar modo da tutta la gente, ripeto, nei nostri spettacoli che facciamo in giro vediamo che c'è le persone Giulia dice sì, Giulia che dice ci sono sì. Delle persone magari come noi con qualche capello bianco ma ci sono che tantissimi giovani che le conoscono tutte, devo dire che le conoscono proprio, ci cantano dietro, per cui vuol dire che queste canzoni hanno veramente lasciato un segno. Poi non dimentichiamo che finita questa epoca è iniziata l'epoca disco, per sì. Cui lì sarebbe da aprire tutto un discorso. Queste io devo dire che vengono molto ben recepite, anche quelle che alle volte vengono rifatte, come quella che stiamo per proporre adesso, che è una canzone di Tenco, Ciao amore ciao, che è l'ultima bella. Canzone di Tenco oltretutto, che, bello. Che però a noi è piaciuta in particolar modo la versione fatta da Giusy Ferreri, mi sembra, no? Che è molto più ritmata, però credo abbia colto perfettamente lo spirito della canzone. Anche se Vanuccio mi insegna, all'inizio Ciao amore ciao non era così, era ben diversa, una canzone ecologica, era abbastanza sì. Ritmata. Poi il testo è stato cambiato per il solito bigliettino che Tenco scrisse all'epoca, è vero, non è vero, poi il discorso del suicidio, vero, non è vero, ci sono ancora delle indagini in corso. Al di là di questo, era un pezzo ecologico, parlava di ecologia e di pacifismo, parlava, ed era molto più ritmata, era diversa. Come l'ha fatta poi al Festival di Perché avevano il grosso problema tra virgolette, all'epoca di avere comunque un'orchestrazione a Sanremo. È vero. E diventava difficile, e da una parte i discografici non volevano che fosse troppo beat, effettivamente, diciamo così, non era ancora il momento forse adatto, e la canzone aveva appunto degli argomenti che forse non era proprio il massimo da toccare all'epoca. Di converso era molto più facile orchestrarla se fosse stata più lenta e più ariosa come certo. canzone, come effettivamente poi fu presentata a Sanremo. Benissimo. Sì, credo che i capestri che c'erano a quell'epoca fossero enormi. Sì, per qualcuno per arrivare fino sì, a là, per cui sì, sì, hanno fatto caso. Cambiare testi, hanno fatto cambiare. Sì, hanno fatti cambiare fino a poco tempo fa. Sì, voglio dire, sì, sì, diverso. Sì. Non è che insomma. Però mia... all'epoca effettivamente Sanremo aveva un altro forse valore, nel senso che oggi io lo vedo più come una manifestazione consumistica. Sì, sono d'accordo. All'epoca invece era una manifestazione che proprio uno si giocava tutto. Cioè i cantanti quando arrivavano lì si giocavano veramente tutto effettivamente. Beh, poi si capiscono veramente anche le tragedie. Detto c'era che anche poi più non qualità. Si sa se effettivamente, ecco, però come, insomma, si capiscono le tragedie. Come diceva giustamente adesso c'era Agostino, più c'era più qualità, ma c'era, e forse anche Giorgio può confermarcelo, c'era un lavoro completamente diverso dietro da parte delle case discografiche. Cioè c'era la scelta del brano che sarebbe andato a Sanremo, che ricordo è il Festival della Canzone Italiana e non del cantante italiano, che è un po' diversa la cosa. Adesso è il Festival del Cantante. Adesso, esatto. E diciamo veniva poi fatta provinare da diversi artisti che l'avrebbero portata. Il discografico non aveva più interesse a mandare Rita Pavone piuttosto che Little Tony. Aveva bisogno di una canzone che avesse venduto 1 milione di copie di 45 giri. È vero. Quello gli interessava. Allora la cantava Little Tony, la cantava Rita Pavone, la cantava chi sapeva interpretarla meglio. E quindi ecco perché fino ad un certo punto, diciamo metà anni 80, dove questa mentalità più o meno è proseguita, le canzoni di Sanremo ce le ricordiamo. Dall'85 in poi. Basta. Auguri. Buco assoluto. Ok. Io me ne ricordo un'altra, ma comunque questo è un altro discorso. Di Sanremo, quella che ha vinto nel 92. 91. Sì, sì. Che hanno cambiato il testo anche di quella. Anche quella. Sì, il Corriere, no, però sono il Corriere stati... della Sera non c'era, ecco, prima. Esatto, sono stati costretti. Comunque, forse è meglio che torniamo ai nostri buoni cristalli. Sì, sì, certo, no? Certo. Allora, ci fate ascoltare questa canzone? Da crescere in campi d'arancia. la meraviglia di poter riascoltare certi capolavori della musica italiana fa sempre molto, ma molto piacere. Complimenti a Giulia. E... Grazie. Grazie. Sì, vogliamo sottolineare che cantano dal vivo. Assolutamente dal vivo. E ripeto, e tutti questi pezzi qua sembrano semplici, ma non sono semplici. Sì, melodia sì, è bello, è accattivante, però dietro la melodia c'è, come giustamente diceva Vanuccio, un grande lavoro, perché c'erano grandi professionisti che costruivano il pezzo per la cantante. La cantante doveva andare, doveva portare il milione di copie, cosiddetto, esatto. E c'è poco da fare. Beh, guarda, adesso noi abbiamo sentito Ciao Amore in questa versione, no? Che comunque ci dà la dimensione di quanto certe canzoni siano proponibili con le diverse sonorità più legate all'epoca. In fin dei conti, 20 anni fa Loredana Bertè presentava Ragazzo mio, certo, sempre arrangiata da Fossati, in un album, sempre una canzone di Luigi Tenco. Per cui voglio dire, esistono delle canzoni che, pur dando la sonorità magari più attuale, riescono ancora ad essere estremamente fantastiche. Si vuol dire che all'epoca Tenco scrisse un capolavoro assoluto, cioè un pezzo che continua ad essere, siamo nel 2012, e sicuramente potrà avere anche un'altra versione. Mi ricordo la versione di La Cruz, ti ricordi? Esatto, esatto. Bellissima, esatto. Giovanardi, un grande tenconiano, se mi, mi puoi concedere questo diminutivo. È un grande amante di Tenco, c'entra proprio dentro, Maurizio, nello spirito. È quello che si diceva prima, cioè non è tanto importante come o cosa, è chi sente la canzone. Quindi chi sente riesce anche a trasmetterla. Esattamente. Che sia arrangiata in modo diverso. Tu puoi fare come, non so, succede spesso nei concerti di Dylan, che lui riarrangia le proprie canzoni, ti fa Knockin' on Heaven's Doors in versione reggae. Sì. Non è un problema, la canzone è splendida. Che la facciano i Guns N' Roses in una certa maniera, sì, la faccia l'autore in versione reggae, insomma. Anche se però posso dirti una cosa, spesso e volentieri quando si vedono i concerti e si sentono i concerti di Dylan, qualcuno resta un po' basito, non si ricorda neppure da dove veniva fuori Knockin' on Heaven's Door. La fa talmente complicata che forse l'ultimo pezzo, adesso mi ricordo il ritornello. Dylan è così. D'altronde mi metto anche nei suoi panni, 50 anni a fare la stessa canzone. Non si può. Effettivamente diventa dura. Vanuccio, cioè, i fans di Bob Dylan comprano i suoi dischi e comprano anche la canzone, questa canzone, perché per loro è un mito, insomma. Sì, non c'è dubbio, ma infatti dopo vanno a casa, le ascoltano come vogliono. Voglio dire, se lui ha avuto molta fortuna per quanto riguarda la musica, e anche in merito di certe canzoni, una di queste è appunto Knockin' on Heaven's Door. Assolutamente. E quindi è giusto, secondo il mio punto di vista, che lo debba fare quantomeno un omaggio ai suoi fans che comprano i suoi dischi. Ma è come Van Morrison, Bruce lo sa. Van Morrison è un personaggio molto strano. Molto strano, che può suonare 20 minuti come può suonare 2 ore. Possono andare 20 minuti di swing, che la gente non capisce, perché i suoi dischi non sono di swing, certo, anche se qualcosa c'è, e 2 ore di musica celestiale, volutamente, certo, blues, come lui sa fare. Ma è Van Morrison, c'è poco da fare, è così. Esatto. Allora, cosa facciamo adesso? Sono le 21.44, ma abbiamo ancora tempo. Abbiamo parlato di Tenco, Ciao Amore Ciao, proseguiamo su questo, come si dice adesso, con il termine degli ultimi tempi? Esistono dei termini? Proseguiamo su questo trend, su questo trend. Perché Ciao Amore Ciao? Perché avete scelto quello? Perché avete scelto Tenco? Perché ti piaceva Giulia? Sì, a me da morire, perché è una canzone, secondo me, triste, però profonda. Profonda e che fa anche riflettere. Che fa molto riflettere, se hai ragione. Mi piace anche perché, è una delle preferite della mia mamma, che mi sta ascoltando, quindi l'ho dedicata a lei. Ah, la mamma si chiama? Nicoletta. Ciao mamma. Ciao Nicoletta. E poi fa pensare tante cose, anche una persona in particolare. Certo, per come molto no. Bella. Naturalmente. Io ricordo, dopo terminiamo su Tenco, ricordo una versione meravigliosa, Agostino lo sa, di Vedrai, fatta da Farida, che era meravigliosa, cioè l'aveva proprio totalmente ricostruita, l'aveva proprio diventata sua. Cosa dici, Vanuccio? No, è vero. Aveva una voce incredibile, che era stata lanciata da Renato Zero, tra parentesi. Sì. Sì, pressa poco. Era la corista. Possiamo dire così. No, vabbè, indubbiamente un talento. Una voce meravigliosa, cioè, esatto. Vedrai, l'aveva proprio... Mi piaceva molto, perché i dischi di Tenco all'inizio non erano tanto famosi. Che cazzo di tinto? Non è che non fossero famose, era lagnoso. Era lagnoso, ecco, hai detto giusto. Era lagnoso. Questa hai ragione. E la gente lo trattava come l'uccello del Mario Guglia. Esatto. Lui, sì, poverino, aveva un suo genere, aveva una sua giusta esternazione, però c'era chi cantava, c'era una volta una gatta sul tetto, eccetera, eccetera, eccetera, c'era chi cantava vedrai, vedrai. Eccetera. Ovviamente c'era un abisso di differenza. Anche se Paolo ha scritto... Anche se la città era lo stesso. Anche se Paolo ha scritto belle cose lo stesso. Ma no, indubbiamente. Dico semplicemente, guardate che sì, c'era chi trattava certi argomenti in una certa maniera, e chi altri? E chi cantava altre cose che molto probabilmente al pubblico era... Nel momento in cui tu facevi il cantagiro o il disco per l'estate, era difficile andargli a spiegare il malessere che avevi all'interno. È, cioè, vero, è vero. Fini conti, tu dovevi vendere, ho scritto Tamo sulla sabbia, esatto, Franco IV. Franco IV e Franco Primo. Cosa? No, non ti piace Franco IV e Franco Primo? Penso no, sia uno dei pochi che non mi piace. Abbiamo fatto solo quella, poi tutto sommato, sì, poverini. Anche se hanno fatto... Io credo sia una delle poche canzoni che noi non abbiamo avuto in repertorio. E come mai, secondo te? Perché non vi piace? Non mi piace. Ero in duo, voi siete in tre, insomma, ero in duo praticamente. No, all'epoca eravamo in sei. Ah, sei, quindi. Sei, per cui... Ma niente. Non mi piace. L'approccio di un pezzo, quando decidete di fare una cover, cosa pensate? Giulia compresa, visto che è dentro adesso il discorso. Per quanto mi riguarda, deve crearmi un'emozione. Sia... vabbè, quelle che noi abbiamo fatto in tutti questi anni, è logico che sono dentro il nostro repertorio, tutti gli anni cerchiamo di cancellare anche con molta difficoltà e inserire magari qualcosa di nuovo. La stessa cosa sono per quelle nuove, cioè ci deve creare un qualcosa, altrimenti è difficile che la inseriamo nel repertorio. Diventa per forza di cose, per il tipo di attività che facciamo, inserire quelli che sono classici dell'estate, chiamiamoli così, che durano un mese, due mesi. Però noi in generale cerchiamo di tenere brani che possono andare bene per diversi anni, e brani soprattutto che ci diano emozione. Adesso io ho preparato un brano, ad esempio, che è vecchissimo, da far ascoltare, adesso faremo un giro, però è una canzone che oltretutto dovrebbe essere triste, però nella sua semplicità, perché sono quattro accordi, secondo me è una canzone che è dolcissima. E te lo leggo negli occhi di Dino. Se vuoi sentire anche la loro opinione su questo, i quattro accordi è sempre opinabile. Dylan o Lou Reed ne usa tre, sì, di solito. No, per cui, insomma, quattro accordi, nel senso che alle volte noi siamo abituati, ad esempio, abituati con Baglioni, che ne fa 30.000 di accordi. Sì, no? Esatto, anche un po' troppi qualche volta. Un po' troppi. Ne fa 30.000, ognuno ha le diminuite che... Esattamente. Sì, no? Siamo abituati con lui, per cui noi veniamo più da questa epoca qua. Che, cioè, all'inizio, quando abbiamo iniziato, tutti siamo autodidatti, per cui... quelli erano gli accordi che si conoscevano. Certo. Famosa, un La minore, un la Mi minore. La canzone era... del sole, esatto, per tutti. Si parte tutto da, si partiva sempre da quella. La maggiore sorpresa. O la bambolina che fa no. Che bella anche quella, che bella anche quella. Sì. Però quelli la davano, quelli davano un arrangiamento molto molto era più l'originale era francese. Era francese, Michel Pernet. Era la famosa iniziazione. Era la famosa iniziazione alla musica. Siamo pronti allora? Facciamo. Ok, allora. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera. Te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me, forse vuoi dirmi ancora no, ma tu hai paura. Stai soffrendo per me, e nei tuoi occhi che piangono mille ricordi, no, forse nascerà un amore vero, te lo leggo negli occhi, tu lo leggi. Tanto indietro torni. Ah, tanti. La canzone della Mattonella. Sì, questa sì, è la canzone della Mattonella. Dino sì. aveva una gran bella voce. Un pezzo che faceva Dino erano sempre caratteristici. Dino faceva parte dei Kinks e poi se n'è andato, è diventato solista. Perché? Perché la casa discografica voleva il bello sempre davanti e tutte queste cose qua. Però bella, bella versione. Si sentiva che l'amavi. E posso dire, ti sei avvicinato molto alla voce di Dino in questo momento. Cosa dici? No, no, perché è ti sei avvicinato come no, pathos. Comunque è nelle mie corde. È nelle tue corde, esattamente. Sì, nelle tue corde. Ci sono certe canzoni, certi interpreti che mi vengono più spontanee. Sì, in automatico. Però se sentiva che ti piaceva. Sì, sì, assolutamente. Sì. Proprio dentro le radici, entravi proprio dentro il pezzo. Assolutamente sì, perché cioè, ti dico, noi abbiamo un repertorio che abbiamo. Sì, avete tantissimi. 300-400 canzoni. Sì, un sacco. Però ci sono però, le preferite e meno preferite. Però comunque non le odiamo. Certo. Cioè, quindi le facciamo volentieri anche le altre. Ci sono quelle, naturalmente. È chiaro, ma è giusto che sia ti così. Ti senti di più nelle corde e quindi le fai più volentieri. Poi, visto qui anche Giulia. Giulia, questo è un pezzo vecchissimo, Giulia, quindi sì. proprio l'era, proprio beat, proprio centro del beat, sì. il beat italiano. Canzoni storiche. È una canzone storica. Sì. I Kinks era un grande gruppo, cara Giulia. Facevano delle cose meravigliose. Hanno fatto Blowing the Wind e Vannuccio, i Kinks, qui ti ricordi? Sì, beh, insomma, ha fatto Dylan è stato depredato in senso positivo. Cosa dici? È stato depredato in senso positivo? Sì, sì, è stato depredato. Sì, sì, anche Gianluigi, anche Gianluigi. Gianluigi lo afferma anche Gianluigi. Esatto, esatto. Vi posso interrompere perché abbiamo un altro ospite al telefono. Abbiamo Giordano Melchiori. Ciao Giordano. Buonasera a tutti. Buonasera Giordano. Come va? Non c'è male, diciamo. Senti il caldo, si sente. D'altronde, l'estate. Aspettiamo tutto l'inverno che arrivi. Non esatto. possiamo lamentarci. Giordano fa parte di un caso atipico della discografia, Vannuccio. Spiegalo te, dai, allora, sto caso atipico della discografia. Io faccio qualche accenno e dopo sarà Giordano sì, a parlarcene. Certo. Allora, Giordano fa parte di un... Fa ancora parte, effettivamente. Sì. Tanto per restare nell'ambito delle continuità, no? Di un gruppo, sempre beat, in questo caso del Padovano, che erano gli Halls. Benissimo. Allora, Giordano, volevamo proprio sentire da te come mai gli Halls non hanno mai avuto modo di, in qualche maniera, far parte effettivamente discograficamente della scena, anche se qualcosa di pronto c'era all'epoca. Certo, noi avevamo preparato dei master, diciamo, le cosiddette pizze, ne avevamo preparate un paio, poi per ragioni commerciali e anche perché noi eravamo più che altro molto visti, diciamo, eravamo... Cioè ci piaceva fare musica per il piacere di fare la musica, non con scopi commerciali, solamente per il piacere di suonare. Poi diciamo, molti sono andati militare, altri hanno cominciato a lavorare e quindi le cose si sono affievolite fino a scomparire. Però nel periodo che noi abbiamo suonato abbiamo avuto diciamo, delle belle soddisfazioni. Abbiamo fatto i concerti, suonato in tournée con i Rocks, con la New Broadway Band, quelli di Winchester Cathedral, poi con Mina, Simonetti, tanti altri, insomma. Beh, se ben ricordo, più di qualche esibizione alla Bussola l'avete fatta, certo. No? Abbiamo fatto il Piper, abbiamo fatto le Campanine di Jesolo, abbiamo fatto il Cariba di Rimini e l'Altro Mondo e altri... Quindi locali storici, Giordano, assolutamente. Voi vi chiamavate prima Rubber Soul, però, oppure esatto, così? Esatto, sì, c'è stata stata Beatles sempre che ci vengono sempre dentro i Beatles nonostante tutto. Sì, diciamo che i Beatles diciamo erano un po' come per tutti un po' il mito di quando in quegli anni i giovani suonavano. Esatto, poi c'è, a proposito del disco che diceva prima Vannuccio, era stato annunciato da giovani l'uscita di questo fantomatico, certo, 45 certo. giri. Siamo stati con noi giovani, abbiamo fatto un concerto con Rizzo Pavone alle Padovanelle. Vedi. E cioè abbiamo fatto anche noi la nostra musica. Altro, poi anche una questione di fortuna, diciamo, se trovi diciamo gli agganci giusti, fai diciamo carriera. Però... E poi se non lo trovi, purtroppo... si affivoliscono tutti, insomma. Certo, Giorno, però vedi, questa è una bella cosa secondo me che in qualche maniera è stata sfiorata ma che vorrei sottolineare. In fin dei conti il talento che in qualche maniera si respirava all'epoca veniva riconosciuto anche dal grande artista, cioè voglio dire Rita Pavone, che all'epoca era una che comunque era in vetta alle classifiche, certo. suonava benissimo con questi tra virgolette poveri sconosciuti degli Halls sulle rive del Bacchiglione, certo, ecco, ma quindi... io le soddisfazioni migliori per dirti le ho avute con i Rocks, con Celsa Piro, Mike, Bobby, che diciamo tra l'altro ho mantenuto delle amicizie con il loro tecnico che una volta era dei Rocks, Luigi Zago, che è anche lui di Padova, abbiamo ancora rapporti quotidiani quasi per altre ragioni. Però con i Rocks ho avuto molte soddisfazioni nella tournée della Riviera Romagnola. Non sono cose da poco, no, sono cose poco, importanti. Perché sembra, magari sembra che stiamo parlando di chissà che, sì. che pochezza, invece ragazzi stiamo parlando di storia della musica. Adesso in qualche modo sono solo ricordi purtroppo, anche se io in questo periodo abbiamo rimesso insieme gli Halls, non con la stessa formazione, ma con la formazione attuale, perché come dicevo prima non avevamo scopi commerciali o di successo, ma solo perché ci piaceva suonare, cioè ci piaceva la musica. È quello importante. Giustamente tu hai detto, Giordano, rimesso in una formazione con il gruppo di una volta, The Halls, chiaramente la formazione con te ancora membro ufficiale della band. Questa voglia di rimettersi in gioco come i Cristalli che tutti i giorni si rimettono in gioco quando suonano, come mai è venuta fuori nuovamente, Giordano? Perché c'è l'amore per la musica. Cioè, io non suono quando suono, non suono perché tu mi ascolti, io suono perché piace a me. Ah, chiaro, ho capito. E questo penso sia la chiave, cioè io penso che tutti gli artisti che si divertono quando suonano hanno successo, quelli che lo fanno per lavoro dopo un po' spariscono. Si stancano, esatto. Sì, sì, diventa. È una motivazione che è importante secondo me. Certo. Sì. Benissimo. Allora, Giordano, noi ovviamente ti ringraziamo molto per questo tuo intervento. Io ringrazio voi. È sempre piacevolissimo sentirti. E ovviamente è piacevolissimo anche sentire direttamente da te com'era lo spirito del padovano dell'epoca, insomma. Quindi il nostro buon Veneto che sembrava un po' lasciato da parte. Veneto era un po', Padova in particolare, era considerata la Liverpool italiana. Ecco, vedi. Infatti Bacchiglione Beat è diciamo una, come si dice, una ricostruzione allegorica del Mersey Beat inglese. Ah, chiaro, sì. Sì, esattamente. Esatto. Non ha lo stesso sound, però, ovviamente. Insomma, dobbiamo accontentarci, no? Certo, e comunque ribadisco, è sempre molto bello, come dicevi tu, è divertente soprattutto per chi ci partecipa, ed è divertente anche per chi va a vederlo, perché una cosa è comunque sentire quello che viene fatto, una cosa sarebbe stata avere una parodia dei tempi, che è ben diverso. Io ho delle registrazioni dell'epoca, se vi interessa. Ecco, Giordano, ti facciamo un invito di venire qua, possibilmente con gli altri tuoi amici componenti, con un po' di strumenti, e possiamo anche sentire quel fantomatico singolo mai uscito a 45 giri. Va bene, ho le prove di quello. Io sono perfettamente d'accordo, è tutto vero quello che dici. E allora vedi che abbiamo qualcosa in comune. Certo. Va bene. Buon lavoro ragazzi. Grazie Giordano. Grazie Giordano della disponibilità. Arrivederci cari. Ciao. Allora io direi di fare un po' di pausa a questo punto. Sì, facciamo riposare, ma poi avremo una carrellata verso la fine di un sacco di pezzi. State facciamo pure ascoltare pronti. Qualcosa dal disco, sì, okay. Sei d'accordo tu? Ho scelto la traccia che apre il disco, insomma, cioè Libera Emozioni, va bene? Li ascoltiamo, Cristalli. Sogno ancora vecchi momenti, con poche lire e felicità. Ricordi di uomo non sempre presenti, mischiati a questa realtà. Vent'anni passati insieme ad amici, cantando canzoni in feste non nostre. E ancora adesso mi pongo domande, ma poi mi accorgo che tutto è per lei. Per lei che regala sogni ed amici, per chi in un momento ci rende felici, per questa gente che crede in qualcosa, per gli occhi allegri di una giovane sposa. Stasera no. Siamo figli come voi, che credono in questa musica, anche stasera. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Libera Emozioni il disco, Libera Emozioni anche la canzone. Questa, se non sbaglio, Giorgio l'hai scritta tu. Sì. Vero? Sì, sì. È tutta tua, musica, testi? Diciamo che sì, sì, è mia, e poi Giampaolo come sempre mi dà una mano in arrangiamenti, in altre cose. Per quanto riguarda le armonizzazioni, credo lui sia più bravo di me. Io sono più per l'idea embrionale, per i testi. E come è nato questo testo? E questa è proprio una canzone che io ho dedicato alla musica, cioè quello che per me è la musica. E l'ho fatta quasi per scherzo, non era così, era molto più lenta l'originale, più armonizzata. C'era un finale che durava minuto e mezzo con degli archi fantastici. Abbiamo tagliato per restare nell'ambito del disco, abbiamo riarrangiata proprio completamente in reggae. Qui si sente un attimo la mano di Verardo, di pittura fresca che ha una certa predisposizione al genere per cui. Esattamente. Però è una canzone che è importante, perché credo sia la prima canzone che ho scritto. Passiamo un momento a una particolarità, che è questa: voi avete inciso 2,45 giri e 6 dischi, 6 LP, una volta si chiamava LP, si chiama ancora adesso LP, visto che sono ritornati alla grande. Con che spirito avete inciso questi 2,45 giri? Bello. Dai, ti ricordi qualcosa? Sì, ti ricordi tutto, dai, ti ricordi. Sì, no. Anche lo studio di registrazione ti ricordi. Allora, dovete pensare che la prima volta che noi abbiamo registrato è stato nel famoso studio di Marocco di Cristiano Velludo. Sì, famosissimo. Dove bazzicava Kless, sì. Per intenderci. Infatti noi eravamo molto preoccupati, perché i ragazzetti che eravamo, insomma, così, a parte che costava l'ira di Dio, per cui esatto. Ci abbiamo fatto le prove proprio... Siamo arrivati lì che non occorreva neanche incidere, eravamo tutti pronti, perfetti. Non si poteva sgarrare di una lira. E lì bazzicava questo Kless e abbiamo inciso in quattro piste. Incideva in quattro piste, per cui una pista tutta la strumentazione fatta dal vivo, live. Certo. Una pista mettevamo i cori, perché noi avevamo questa particolarità dei cori. E una pista le chitarre soliste e una pista le tastiere soliste. Mm-hmm. Solista. È stato molto molto molto bello, e ripeto, noi eravamo ragazzetti e lì passava un po' di tutto all'epoca, già con cose strane che passavano la sera, cotti dallo sforzo, invece loro erano belli, tranquilli, pimpanti. Ma era divertente, però, perché è stato una cosa che ci ha lasciato un po' il segno. Devo dire che quell'epoca noi abbiamo inciso... Ti ricordi l'anno? 1972 71-72 E all'epoca noi avevamo conosciuto il chitarrista dei Wallace Collation. Ah, i Wallace Collation, che avevano partecipato a Sanremo, che hanno fatto anche che Morandi fece una cover di Wallace Collation. E allora abbiamo conosciuto questo chitarrista che ci aveva ventilato che aveva degli acciamenti a Milano per cosa del genere, e abbiamo iniziato a fare abbiamo fatto questo disco, questo 45 giri, questo demo. Sì, adesso si chiamerebbe demo. Sì. Esatto. Abbiamo fatto questo disco e poi portato su e giù per Milano. Ci sarebbe da raccontare, da morire da ridere, ma... ma era un'esperienza anche quella, grande esperienza. Sì, noi partivamo alla sera da Venezia, perché denaro non ce n'era. Certo. Per cui partivamo a Venezia la notte, arrivavamo la mattina a Milano, pronti all'apertura delle case discografiche. Cominciavo a fare il pellegrinaggio classico delle case discografiche. E lì poi ce n'erano di tutti i colori, nel senso, chi voleva solo la canzone comperarla, chi voleva lanciare i soldi. Cioè c'era tutto un meccanismo lì che non era semplice. All'epoca dicevano, appunto, che loro avevano già i Pooh, avevano già i New Trolls. Noi eravamo già definiti sul genere che piaceva, insomma, piaceva. C'erano tantissime cose divertentissime, ripeto, Milano è stata un'esperienza indimenticabile. Poi ripeto, noi questi viaggi mi ricordo interminabili, perché poi il treno non era che si prendeva in prima classe. Chiaramente no. Cioè, viaggi interminabili. Io mi ricordo tantissimo che avevamo un piccolo registratore, che facevamo delle cose stranissime, facevamo proprio delle piccole commedie con tutti i rumori, tutte le cose nel treno per arrivare. Per passare il tempo. Comunque Milano era... Per quanto fosse comunque Roma la capitale, Milano era abbastanza fervida, perché c'era la Vedette, c'era Scarpa, c'era Ferrario, c'erano comunque dei grossi nomi ancora che in qualche maniera, anche se poi po' tutto gli anni 70 sono stati monopolizzati dalla RCA a Roma. Via Noventana, via Noventana. Via Noventana. Ti dico un piccolo aneddoto, noi eravamo, pensa quanto ragazzetti eravamo, cioè nel senso che in Galleria del Corso, dove c'era la maggior parte delle case discografiche, c'erano delle signore lì che aspettavano nelle vetrine. Poi abbiamo capito che erano prostitute nel pomeriggio, ma noi eravamo talmente piccoli che non avevamo diciamo realizzato che queste stavano lì a vedere qualcosa. La città porta anche a questi scompigli, no? La città che sale di boccioni. Beh, adesso suoniamo qualcosa. Che cosa avete deciso? Giulia, cosa hai deciso te, Giulia? No, dico io, Paolo, perché Paolo, tocca a te. Sì. Abbiamo scelto finalmente una canzone per far contento per Agostino. Dovevamo accontentare anche lui. E visto, per stare nei tempi delle canzoni, quelle più vecchie, abbiamo scelto naturalmente La Regina, delle canzoni di Pooh, vale a dire Tanta voglia di lei. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, tra un minuto me ne andrò e non dici una parola, sei più piccola che mai, in silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare, posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazio. Tanta voglia di lei, lei si muove nella sua mano, dolcemente cerca me, e nel sonno sta abbracciando piano piano il suo uomo che non c'è. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? C'è tanta, tanta voglia di lei. Chiudo gli occhi un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante. Il mio posto è solo là. Chiudo gli occhi un solo istante. La tua porta è chiusa. Ho capito che cos'era l'importante. Il mio posto è solo là. Chiudo gli occhi un solo istante. Io li faccio venire ancora per, una, per uno special. Sì, sì, sicuramente. Sicuramente. Ti abbiamo conquistato. Sì. No, ti confesso, anzi, avevamo già in mente io e Maurizio di fare appunto una puntata dedicata proprio ai Pooh, presentare diciamo la loro storia musicale, insomma. Però si potrebbe fare magari con l'intervento magari dal vivo di qualche pezzo tipo questo. Certo, certo. È uno dei pezzi diciamo, storici della produzione dei Pooh. Che ricordo, saranno a Padova prossimamente a novembre, presentare il loro nuovo disco che hanno registrato a Montegrotto Terme. Ah, bene. Ben informato. Questa canzone la volevamo dedicare alle nostre mogli, visto che adesso ci siamo, chiaramente, a Donatella e a Doriana. Adesso voglio fare una domanda al nostro collega, vieni avanti un secondo. No, perché Gianluigi, Gianluigi è un nostro, no, c'è un motivo, è proprio una domanda che poi farò anche a Vannuccio. Dimmi. In Inghilterra c'erano Lennon e McCartney, in Italia c'erano Facchinetti e Negrini. Facchinetti, no, per sminuirli, Facchinetti no. Era un tastierista e Negrini era il batterista. Cosa ne pensi? Beh, oddio. No, come autori voglio dire questo. Ma io ti direi, guarda, sinceramente, se parliamo di Inghilterra, quindi parliamo ovviamente di Lennon e McCartney, hanno fatto, io credo, delle grandissime opere, enormi. Senza nulla togliere a Facchinetti e Negrini, certo. Chiaramente sono quelle cose completamente abbastanza distanti comunque. Però Negrini ha sempre fatto delle cose molto interessanti. Sì, lui era però, quello che scriveva i testi praticamente. Ecco, grande cosa. Questo sicuramente, io ti ripeto, sono molto amante dei Beatles. Se, più Facchinetti e più Lennon McCartney. Esatto. Però Negrini ha fatto un lavoro oscuro, visto che se n'è andato. Ha deciso di andarsene presto dai Pooh e rimanere nelle quinte. Sbagliato, perché è sempre dietro lui. Sì, ma dietro le quinte non suonava, questo voglio dire. Infatti, non suonava, infatti, non suonava. Infatti, è vero. No, ha fatto un grandissimo lavoro e credo sia sicuramente riconoscibile a tutto quello che è il tragitto poi dei Pooh, questo ovviamente. Torniamo al discorso iniziale. Sì, certo, cioè, certo, ma era una provocazione, sì, chiaramente. Questo era, lo capisco. Pure semplice provocazione. Ci sono caduto anche abbastanza bene. No. Anche perché Negrini in qualche concerto comunque c'è, faceva doppia spalla a Stefano Dorazio come batterista, insomma. Esatto. C'erano le due batterie. Eh sì, perché ci sono delle voci, sì, esatto, su questo, esatto. Visto che sì. Tu sai tutto sui Pooh, dicono. Ben informati che Stefano Dorazio forse. No. Non si sa mai, forse? No, dici no. Non credo. Vabbè, vedremo. Vannuccio è un po' incerto su questo. Io sono sempre incerto perché ho visto riformarsi delle cose terrificanti. Per cui per me tutto è possibile a questo mondo. Almeno vedi, la cosa interessante che abbiamo imparato in qualche maniera, sì, questa sera è che certe formazioni, bene o male, non muoiono mai. Vero. Si evolvono, vero, come abbiamo visto, i Cristalli, eccetera. Certo. Altri invece era meglio se 30 anni fa concludevano davvero la loro storia, lasciavano perdere tutto, avevano un lavoro, magari ben pagato, la pensione ce l'avevano già, stavano benissimo dove stavano. E magari potevano essere ricordati per dei bellissimi dischi fatti all'epoca. Adesso forse un po' meno. Portare avanti delle salse tritte, poi fatte, rifatte, no. Sai, sì, so. Anche perché Gianluigi, sai, il problema di fondo è con la nostalgia arrivi fino a un certo punto. Cioè gli unici che hanno vissuto per anni, bravo, di nostalgia sono i brasiliani. Perché la saudade funziona sempre, da Jobim fino a Javan, tutti quanti hanno la saudade. E loro propinano la stessa canzone ogni anno uguale. Cosa succede? Non è così per tanti altri gruppi storici, quindi è molto meglio forse che a un certo punto hai finito una tua storia musicale, degnissima, eccetera, e stai dove sei tranquillamente. Ci sono altre persone che non hanno mai, tra virgolette, mollato, non hanno mai neanche preteso chissà cosa, e giustamente dopo 40 anni sono ancora qua a proporre con molta onestà un lavoro che loro sanno fare. Ok, sì, perfetto. Sì, sono perfetto. D'accordissimo. I cristalli sono questi. Sono un... I cristalli sono questi. Sono questi gli uragani. Gli uragani sono gli altri, eccetera. Quindi è positivo. Così. 22 e 21. Abbiamo ancora circa 10 minuti da propinare ancora suonando. Che cosa, ragazzi? Allora, vuoi parlare? Fa parlare la Giulia. Sì, dai, Giulia, per esempio, Giulia, tu. Dai. Esatto, dai. Proponiamo un medley di Dick Dick. Ah, per rimanere sulle canzoni storiche. Ah, bene, bene. Ok. Salgo sopra un autobus, mentre guardo la gente mi domando perché mi sembrano tante nuvole e nascondono te. Libertad. l'acqua dopo il fuoco non ti lascio più. E tutti avevamo sotto casa un campo, una calle, un campiello. Quella è la nostra isola di White. Sai cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di chi ha negli occhi blu della gioventù, di chi ama ipi, ipi, ipi. Dai assieme, dai! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Maurizio, in tanti anni che conosciamo Vannuccio non l'abbiamo mai sentito cantare da vivo. È la prima volta che abbiamo visto cantare Vannuccio. Lui non si è accorto, ma aveva il microfono aperto. Riprendo anch'io la carriera interrotta anni fa. C'è sempre la prima volta. Beh, sarebbe il ritorno questo. No, no, dicevo qui a Bruno Di Vento. Ah sì, sì, sì, in questo caso sì. Una cosa volevo chiedervi, avete fatto anche Io mi fermo qui, a me piaceva molto, moltissimo la versione che aveva fatto Donatello di un album che aveva fatto Donatello, un album meraviglioso. Donatello era con Gian Pieretti, era il, non so se sei d'accordo, il Donovan italiano in alcuni momenti, sicuramente anche come aspetto, come no? Aspetto somigliava molto, proprio dei hardyguard di me, esatto, hardyguard di me sicuramente. E Gian Pieretti, peccato, perché dopo Il vento dell'est, che era un pezzo meraviglioso, pezzo stupendo, anche là, no? Prima si parlava della semplicità della melodia, un giro di do. Esattamente. Sì, esattamente, do la minore fa sol, insomma, e fai un capolavoro, perché Il vento dell'est. Peccato Gian Pieretti, è stato secondo me un po' rovinato dalla concorrenza che aveva, quando Ricky Gianco, altra gente che in qualche modo era molto probabilmente più rampante di lui nel fare le cose, e fu in qualche maniera accantonato. Scrisse, sì, però, scrisse poco. Però ha scritto molte cose con Ricky Gianco. Sì, però. Ha fatto pietre? Sì, che molti dicono, sì, ma è copiato da Like Rolling Stone di Dylan, ma non insomma. Però Ricky Gianco aveva un altro tipo. Sì, Ricky Gianco è un'altra portata. Un'altra portata. Però dobbiamo sottolineare che, a proposito di Gian Pieretti, lui ha scritto la traduzione italiana di Atlantis, che era celeste, che era meraviglioso come pezzo. Pochi lo conoscono versione celeste, ma è meraviglioso. Lo conosci te? Ah, perché non lo fai più adesso? No, adesso all'epoca. Peccato, perché Atlantis è un pezzo meraviglioso. E Celeste era, sei d'accordo? Era un pezzo bellissimo, perché era molto molto bravo Gian Pieretti, era molto, e quando faceva i reading, ti ricordi, della Beat Generation, cosa meravigliosa, era il primo in assoluto, anche prima di De André. Sì, esatto. Dobbiamo salutare, perché è arrivato Marco. È arrivato Marco, sì. 30 secondi solo per dire dove si trova, se qualcuno volesse acquistare il vostro disco, dove lo si può trovare. Nei negozi e soprattutto ci contattate nel nostro sito. Adesso passo Giorgio, che è lui quello ha detto è rifornitissimo public relation. Allora, il disco è disponibile in tutte le piattaforme digitali, per cui iTunes e tutto il resto che ci sono, è disponibile nei negozi musicali, per cui è distribuito a tutti gli effetti, anche se magari è un po' dimenticato, perché non essendo prettamente molto conosciuti o non avendo un supporto pubblicitario alle spalle è certamente più complicato, però è distribuito a tutti gli effetti. Piattaforme digitali, per quanto riguarda noi siamo in giro tutte le sere. Adesso domani sera siamo in un posto, domenica in un'altra parte. Puoi dirlo dove sei. Puoi dirlo. Ma magari voi non siamo in un campeggio, domani sera siamo in un campeggio. Dove? Che se qualcuno a Cavallino. Se volete venire, venite tutti. Fatevi un po' di domenica in un altro campeggio. E comunque, in ogni caso, noi abbiamo il nostro sito internet, che è www.cristalliband.com, e lì trovate tutte le nostre date, i video, magari qualche foto vostra. Se poi ci manda qualche foto, la inseriamo anche per quanto riguarda la serata. cosa dire di più? Solo ringraziarvi veramente di averci ospitato, ringraziare l'amico Vannuccio che... Ha avuto l'idea, è partito dall'idea di Vannuccio. Che come sempre ci dà un aiuto quando è possibile. Certo, certo. È uno dei pochi che io comincio a apprezzare, nel senso che dà una mano a quelli che sono i musicisti, ma probabilmente perché è un amante della musica. Lui è uno della famiglia di Blu Radio Veneto, sì, comunque. Sì. Comunque no, è un amante della musica, cioè nel senso, certo, che è uno che la musica proprio la vive, per cui diventa tutto più semplice. Certo. Ringraziamo, come dico, tutti voi, ringraziamo tutti i radioascoltatori. Radioascoltatori, stavo dicendo telespettatori. Speriamo presto di andare anche dall'altra parte. Allora, radioascoltatori, grazie veramente a tutti. Passo la parola ai miei soci e colleghi. Ringrazio tutti voi che ci avete aspettato. È stata una trasmissione molto bella, perché il canto è colore e la musica è vita. E saluto tutti i miei amici, in particolare il mio migliore amico Mauro. Ciao! Allora, anche io mi collego con i miei amici, naturalmente ringrazio tutti voi per l'ospitalità, e indubbiamente è una cosa che vale, la radio vale, e quindi bisogna sfruttarla. Sì, Radio Kill del Dio Star non esiste, il video non hai ucciso la radio, certo. L'unica cosa che vorrei, se possiamo, togliere due minuti a quello che ci seguirà, Marco, dal nostro disco ci sarebbe una canzone che dice buonanotte, è veramente una buonanotte che noi diamo a tutti, alle persone, alla persona amata, ai nostri figli, un po' a tutti. Se avete la possibilità di concludere con questo brano, saremo contenti, ecco. Grazie ancora. Ok. Vannuccio, grazie anche a te. Di niente, è sempre un piacere, per cui per me è un grosso piacere essere qua con voi, lo sapete, insomma, quando, certo, abbiamo la possibilità, insomma, ringraziamo anche il nostro, anche ringraziamo Nino. Gianluigi e anche Nino che fa parte dello staff, che fa parte della famiglia anche lui. Grazie ad Agostino, sei stato meraviglioso. Io? Hai traghettato benissimo la trasmissione, che è complicata, ma grazie. Fatto benissimo. Mi fate diventare rosso se approvi. Allora, io vi do l'appuntamento a lunedì prossimo alle... A che ora, Maurizio? È alle ore... Non si sa. Possiamo, o alle 21 o alle 22:30. Ci sarà un cantautore. Poi martedì avremo un altro appuntamento. Mercoledì avremo un altro appuntamento. Giovedì avremo un altro appuntamento. Perché la musica, come diceva giustamente Giulia, è vita. Quindi, esatto, si deve vivere suonando e cantando, secondo me. Lasciamo lo spazio alla musica rock con Marco, e quindi buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto. Ci risentiamo prossimamente qui. E mi raccomando, agosto è imperdibile a Blu Radio Veneto. Stiamo preparando delle cose pazzesche. Restate lì e non cambiate, come si suol dire, Vannuccio, stay tonight, giusto? Stay tuned. Cioè, stay tuned. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Dormi, stai tranquillo, dolce figlio mio, che tuo padre è sempre accanto a te. Sogna il paradiso, dolce bimbo mio, buonanotte. Spendi no, musicale.